Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia e il vostro numero di telefono da ora fino alle 19, 800 24 00 24, il vostro numero per i messaggi sms 349 238 6666. Per parlare di quanto abbiamo visto, insomma, negli ultimi tre giorni, in questa giornata estremamente spalmata, facciamo un po' fatica, vi confesso, almeno io faccio un po' fatica ad abituarmi a tutto questo spezzatino, non so voi. Dunque, ieri abbiamo visto il Napoli passare in carrozza su ciò che resta del Lecce, che pare che Cosmi stia arrivando al posto di Francesco. Abbiamo visto soprattutto l'Udinese vincere a San Siro su ciò che resta anche in questo caso dell'Inter, sempre più prove tecniche da fine ciclo, e poi ne parliamo naturalmente dell'Inter, ma anche di quanto sta facendo l'Udinese, che è una squadra che ha le idee estremamente chiare, sa dove andare e sa come arrivarci, almeno questa è la sensazione che ho avuto. Oggi pomeriggio, quattro partite, monitorata la Juventus che da non molto è passata in vantaggio con il Cesena, mentre la 13ª edizione in 13 gare della Roma di Luis Enrique sta perdendo 2-0 a Firenze. Giovanni Capuano oggi ci racconta tutto. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Facciamo un riassunto. Il riassunto dice che il Bologna conduce 1-0 sul Siena, segnato al 27esimo del primo tempo di Vaio su un bellissimo assist di Diamanti. Di Vaio che si sta risvegliando e potrebbe essere l'uomo in più per il Bologna, che in questo momento sarebbe fuori dalla zona caldissima della classifica. 0-0 tra Chievo e Atalanta, partita bruttina, meglio l'Atalanta nel primo tempo, il Chievo invece si sta rendendo un po' pericoloso in questa ripresa. E poi c'è il 2-0 della Fiorentina sulla Roma, Jovetic su rigore al 17esimo del primo tempo, nell'occasione espulso anche il brasiliano Juan, autore del fallo su Jovetic. Ci sono state tante proteste da parte dei giocatori della Roma, poi al 44esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa il 2-0 dei Gamberini. Juventus-Cesena, dicevamo, 1-0 per la Juventus, rete di Marchisio, 27esimo del secondo tempo, un sinistro dal limite dell'area di rigore del centrocampista che ritornava da una squalifica, partita che si era resa difficile per la Juventus, che nel primo tempo aveva iniziato attaccando senza però riuscire a rendersi più che tanto pericolosa, e che poi nel primo quarto d'ora della ripresa aveva perso prima Matri e Vucinic, sostituiti da Quagliarella e Del Piero, e poi al 19esimo lo stesso Del Piero, che è dovuto uscire per un profondo taglio alla testa, sostituito da Giaccherini. Insomma, una situazione che rischiava di complicarsi per Conte, poi è arrivato il gol di Marchisio. Molto bene, questo è il riassunto e insomma vi racconteremo così la parte finale di queste partite. Entrando nel dettaglio, sono d'accordo, abbastanza d'accordo con le lamentele giallorosse in occasione dell'espulsione di Juan. Chiaro la trattenuta che provoca il rigore sulla magia di Jovetic, che oggi sta giocando una grandissima partita, però mi è sembrato un po' eccessiva, diciamo così, la decisione di D'Amato che ha lasciato la Roma in 10. Della Roma, dicevamo, 13ª edizione in 13 gare della Roma di Luis Enrique, che oggi ha lasciato in panchina Francesco Totti. Non so quanto ci sia di fisico in questa decisione, quanto ci sia di strategico. Praticamente una Roma che gioca, anzi non praticamente, è una Roma che gioca senza attaccanti, con Bojan, Lamela e Pjanic là davanti, con Osvaldo a casa a guardarla in TV, come sapete, per le questioni disciplinari ben note, e con Boriello che è sempre stato ai margini di questa squadra. Quanto alla Juventus, ci ha raccontato bene Giovanni Capuano, partita la terza settimanale dei bianconeri, peraltro la prima senza Pirlo che è in tribuna squalificato, e una Juventus che ha fatto una grandissima fatica a scardinare la difesa del Lecce, tanto che Conte ha fatto radicale turnover degli attaccanti, dentro Quagliarella per Matri all'intervallo, poi Del Piero per Vucinic subito dopo l'inizio della ripresa al decimo. La partita Del Piero a 5 centesimi è durata davvero poco per quell'infortunio che c'è stato. Però c'è un episodio importante che sta capitando proprio ora a Torino. Quale episodio? Sì, c'è un episodio importante importante, perché c'è un calcio di rigore per la Juventus, un atterramento di Giaccherini da parte di Antonioli, Antonioli che tra l'altro è stato espulso, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Cesena verso il direttore di gara, che è Doveri di Roma, giocatori del Cesena che stanno chiedendo a Doveri di parlare con Guardalinea, Guardalinea però che si è già posizionato sulla linea di fondo e quindi sembra condividere il fischio del direttore di gara. Allora Antonioli si sta allontanando dal terreno di gioco e sarà a meno di ripensamenti dell'ultimo momento. Calcio di rigore per la Juventus, è stata un'azione di contropiede, c'è stato un traversone sulla destra di Lichtsteiner, sul pallone è arrivato Giaccherini che ha anticipato Antonioli, in realtà c'è stato quasi un rimpallo tra i due, poi nell'inerzia della corsa è andato a terra, c'è stato lo scontro, è andato a terra Giaccherini, Antonioli era arrivato per primo sul pallone col pugno, aveva allontanato la minaccia, palla che poi è rimasta lì, è andato a terra Giaccherini, calcio di rigore ed espulsione. Io, se posso permettermi, per chi non la sta vedendo, direi che è un impatto abbastanza simile nella dinamica a quello di Marchisio con Castellazzi a San Siro in Inter-Juventus, in quel caso Castellazzi non aveva nemmeno toccato il pallone in realtà, però diciamo che allora Braschi disse che era stato un errore non concedere il calcio di rigore alla Juventus e quasi certamente lo era. Io, se posso permettermi, devo dire che questa volta difficile pensare a un calcio di rigore per Antonioli. Io non so cosa avrebbe potuto fare di diverso Antonioli. No, ma Antonioli è uscito e tra l'altro ha preso il pallone pallone con il pugno sulla corsa. Giaccherini è andato addosso ed è stato fischiato in rigore. Mi sembra tutto eccessivo, sia il rigore che a maggior ragione l'espulsione. Mi sembra che vada Vidal sul dischetto, Giovanni. Sì, va Vidal, palla in rete, quindi 2-0, 38esimo del secondo tempo, Juventus che di fatto ha chiuso questa partita, il secondo gol in campionato per Vidal, 2-0, tra l'altro Cesena che è stato costretto a mettere in porta, non sono riuscito a capire chi, però diciamo non si tratta del portiere di riserva, perché sostituzioni terminate, tant'è vero che diciamo che a Vidal è stato sufficiente mettere il pallone nello specchio della porta per segnare il 2-0. Sì, grazie Giovanni Capuano. Caro Andrea Schianchi, inviato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus raddrizza anche questa. Ciao Andrea, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Juventus che raddrizza anche questa, una partita che si era messa non benissimo per i bianconeri. Sono segnali, compreso questo episodio da rigore che secondo me non c'era, con espulsione di Antonioli, sono segnali forse di qualcosa di importante, Andrea. Sono sicuramente segnali di forza questi. La Juventus certamente quest'anno, in questa stagione perlomeno, ha innestato un'altra marcia, diciamo, rispetto alle stagioni precedenti. Secondo me si giocherà lo scudetto fino alla fine, credo che sarà un duello Milan-Juve. Personalmente penso che il Milan abbia qualche cosa di più. La Juventus in questo momento, soprattutto in questo inizio di stagione, si sta avvantaggiando del fatto che, non avendo da disputare le coppe, può allenarsi tutta la settimana, quindi può assorbire al meglio le lezioni di Conte e soprattutto può davvero mettere tanta energia nei muscoli, e la squadra di Conte mi sembra che sia, è vero, abbastanza tecnica, ma soprattutto una squadra piuttosto muscolare, piuttosto di corsa. Certo. Andrea, vorrei parlare un attimo con te invece dell'Inter di ieri sera. Mi sembra che gli ultimi 5 minuti di quella partita con l'Udinese siano stati la sintesi della fine di una storia, con tutta la crudeltà che lo sport sa mettere nella fine delle sue grandi storie, perché tutte le dinastie in fondo finiscono così, con un re che muore in pubblico, no? Sì, forse sì, sono eccessivo, però la prima espulsione in Serie A di Zanetti. Era stato espulso una volta sola, semifinale di Coppa Italia, ho controllato nel 99, Inter-Parma 0-2, ieri primo rosso, rigore. C'ero. C'eri? Esatto. Io c'ero ieri sera, penso un po'. Senti, parata da cinema di Julio Cesar, poi rigore che non c'è al 90esimo per l'Inter e Pazzini che scivola sul dischetto, è tutto lì. Sì, guarda, io credo che questa sia la fine di un'epoca, non c'è dubbio. però quando finisce un'epoca bisogna essere, secondo me, estremamente lucidi e avere una mente, oserei dire, da storico per poter valutare tutte le cose. Allora io credo che quest'epoca non sia finita adesso, non stia finendo adesso, ma sia finita l'anno scorso, in realtà, dopo la conquista della Coppa Intercontinentale da parte di Benitez, da parte dell'Inter di Benitez. Io andrei un po' più indietro alla notte di Madrid, ma comunque siamo sì, lì. Si può andare anche alla notte di Madrid, però indubbiamente con Benitez sono stati conquistati, insomma, comunque due trofei importanti su tre. Ora, secondo me, l'errore grosso dell'Inter, e qui parlo della dirigenza ovviamente, è stata quella di mandare via o di fare in modo che andasse via Benitez, perché credo che Benitez fosse l'unico allenatore in grado di poter reggere a livello psicologico la successione di Mourinho. Quando dico l'unico in grado di poter reggere, non intendo ovviamente a livello di ambiente e a livello di media, perché francamente è vero che i media sono importanti, ma non diamo troppa importanza a queste cose. Io credo proprio dentro lo spogliatoio. Qui c'è un gruppo di giocatori che è chiaramente a fine corsa da molto tempo, e siccome il gioco del calcio è ancora un gioco di movimento, è ovvio che chi corre di più e quindi prende prima il pallone è più avvantaggiato rispetto agli avversari. L'Inter il pallone non lo prende più, basta guardarsi l'azione del gol di Isla di ieri, sì, che è da manuale del contropiede, ma è anche da manuale, non vorrei usare una brutta parola, da non far vedere ai bambini per quello che combinano i difensori dell'Inter, sì, perché cioè, Isla parte da dietro e riesce a fare una sovrapposizione sulla destra con il difensore dell'Inter che dorme, sì, serenamente, neanche avesse... Allora lì vuol dire che non ne hai proprio più, cioè che sei alla canna del gas. Sì, sì, è inutile, poi se quelli che devono dare l'energia supplementare sono i Nagatomo e, con tutto rispetto, perché ieri ha fatto una buona partita, Faraoni, francamente credo che l'Inter debba davvero rifondarsi. Sì. Mi viene da sorridere perché penso all'arrabbiatura di Moratti quando la Gazzetta dello Sport fece il titolo Rifondazione Inter l'anno scorso, ai tempi di Leonardo, e adesso sarebbe da porre questo Rifondazione Inter, perché evidentemente avevamo visto giusto. Sì. Sì, sì, no, eravamo molto lontani dalla realtà. No, ma che torno a ripetere, secondo me l'Inter, questo ciclo dell'Inter è finito la notte di Madrid, poiché quella notte fosse difficile, che il giorno dopo fosse difficile cambiare tutto, sì, siamo d'accordo, però è evidente che questa è una squadra a fine corsa e con l'anima spezzata, no? Quella dei campioni che non ce la fanno più. E quella di ragazzi che, lì possiamo poi parlare di come sarà la rifondazione, di ragazzi che a quel livello non, probabilmente non arriveranno mai, e mi viene in mente Alvarez, mi viene in mente Coutinho, mi viene in mente non so se lo stesso Faraoni, mi vengono in mente questi giocatori che sono stati presi ma che non hanno, mi sembra non siano dei potenziali fenomeni, insomma. Sì, sì, da Jonathan in poi. Esatto. Però vedi, quando tu decidi non è che l'abbia deciso l'Inter, quando Mourinho decide di chiudere la parentesi Inter, e io non so se sia stato un colpo di fortuna o no, riesci a trovare libero un allenatore come Benitez, che oltre ad essere un grande motivatore è anche un uomo di grandissima esperienza internazionale, perché comunque ha vinto una Champions League con il Liverpool, ha guidato fior di squadre a livello internazionale, è un grande conoscitore di giocatori. Certo. Ecco, quando tu hai, io voglio dire, questa fortuna, non voglio dire che sia stato preso apposta, perché allora sarebbe davvero un errore doppio, ma tu hai la fortuna di prendere uno così e cercare di metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio, invece da allora gli è stata fatta terra bruciata. E guardiamo che cosa ha combinato l'Inter, cioè sono andati a fatto in modo che Benitez andasse via per sostituirlo con una persona, un allenatore, Leonardo, che adesso non fa più l'allenatore ma fa il dirigente, sì, perché certo, non era il suo mestiere. Da un'altra parte, quindi. Ecco, da un'altra poi parte. Poi ne è arrivato un altro che allora, aveva delle altre idee e poi la storia è questa qui. Andrea, ti chiedo un attimo di pazienza perché ho il traffico in linea, poi farei anche due chiacchiere, mentre vedo una grandinata di cartellini rossi su Fiorentina-Roma e poi ne chiedo conto a Giovanni Capuano. Giovanni Capuano, cosa sta succedendo a Firenze? Sta succedendo che la Roma chiuderà questa partita in 8, sempre se si fermeranno qui. Intanto 3-0 per la Fiorentina, perché è entrato il calcio di rigore provocato da una parata sulla linea di porta di Bojan, davvero un gesto folle quello dell'attaccante spagnolo sugli sviluppi del calcio, di un calcio d'angolo, un tocco ravvicinato di Nastasic, palla che stava entrando in porta, Bojan ha letteralmente parato due mani sulla riga, ovviamente è stato espulso, terzo espulso dopo Juan e Gago, poi Santiago Silva ha messo il pallone in rete per il 3-0, siamo al 41esimo della ripresa, ma davvero una follia quella di Bojan, perché di fatto priverà la Roma di un uomo importante fra una settimana nella gara in casa contro la Juventus, a partita questa di Firenze ampiamente finita. L'impressione in questo secondo tempo che la Roma abbia davvero perso la testa, sì. 5 minuti prima era stato espulso Gago, doppio giallo, il secondo per una bruttissima entrata a metà campo, partita chiusa a Firenze, ma Roma che sarà senza Juan, Gago e Bojan nella sfida contro la Juventus. Siamo sempre ai soliti piccoli segnali, sfida contro la Juventus alle porte lunedì prossimo, è una Roma che perde altri pezzi, 3 espulsi, Juan, Gago e Bojan, e non ci saranno. Intanto è finita a Torino, eh? Finita a Torino, vince la Juventus 2-0 e sono segnali. Voglio sapere, Giovanni, cosa ne pensi, prima di tornare ad Andrea Schianchi, sul suo pensiero a proposito dell'Inter, visto che conosci molto bene quell'ambiente. Guarda, io penso due cose. Uno è il discorso tecnico della gestione del dopo Madrid, del resto eravamo insieme alla radio la sera di Madrid, e il discorso su che cosa sarebbe stato più utile fare per quella squadra lo affrontammo a caldo, sentendo le parole di Milito che ipotizzava un futuro lontano da Milano. Sul discorso tecnico io credo invece al contrario, che l'errore di scegliere Benitez fu un errore capitale, perché Benitez ha sofferto sin dall'inizio e molto il confronto anche psicologico oltre che tecnico con l'Inter di Mourinho, e di fatto è stato espulso come un corpo estraneo dalla squadra, ed era una squadra che in quel momento aveva la testa libera, quindi non aveva nessun motivo e nessuna tara psicologica di fatto non riconoscere Benitez come propria guida tecnica. Che quella squadra avesse ancora qualcosa da dare, non tantissimo ma ancora qualcosa da dare, l'ha dimostrato che cosa è successo nei 6 mesi successivi con Leonardo, al netto degli arrivi nel mercato di gennaio. Però secondo me c'è il secondo piano che è più importante, che non bisogna dimenticare, cioè che l'Inter deve affrontare una rifondazione, e questo lo sa anche Moratti. Il problema è che in questo momento Moratti non ha la forza economica per farlo. Noi non dobbiamo dimenticarci che dal 2009 la Saras non dà degli utili, non dà dei dividendi, e quella è la fonte di approvvigionamento poi dai conti personali di Massimo Moratti, che ha fatto grande e ha anche buttato via tanto in questi anni, ma insomma è stata la storia dell'Inter degli ultimi 15 anni. In questo momento Moratti non ha quella forza. Il fair play finanziario, che sembra essere quasi sola l'Inter a fare, quasi con autolesionismo in alcune scelte di mercato delle ultime 3 estati, è un meraviglioso alibi per un presidente che in fondo ha capitalizzato tutto quello che doveva fare negli ultimi 15 anni. Però bisogna dire la verità, e anche nelle parole che ha detto ieri Massimo Moratti, smentendo la volontà di cedere la società ai russi, ma in realtà nessuno aveva scritto che lui aveva intenzione di cedere l'Inter a qualche magnate russo, ma confermando quanto possa essere gradito l'ingresso di un socio forte, beh, per chi conosce da vicino la famiglia e per chi conosce da vicino le dinamiche che in questi anni hanno comunque portato Moratti a ritenere l'Inter come una cosa di famiglia, tanto da preparare al figlio anche la successione tra qualche anno, io credo che debba far fare qualche riflessione. L'Inter ha bisogno di una rifondazione, ma in questo momento ha bisogno anche di probabilmente di poter fare degli investimenti che non è in grado di fare. Seguiremo la parabola di Eduardo Vargas, piace tantissimo all'Inter, ma il problema è che c'è il rischio, ad esempio, che si ripeta con lui quanto è accaduto l'inverno scorso con Sanchez. Non è che Branca non sapesse che Sanchez era meglio di Alvarez, però il problema è che l'Inter non poteva più arrivare. Non ci sono state le possibilità di prenderlo. Dunque, Andrea, il futuro non è non è roseo, cioè i fantasmi che viaggiano sulle teste degli interisti possono essere giustificati se è così. Sì, guarda, io lo dico da ex simpatizzante interista, ma voglio dire, d'accordo con il fair play finanziario, ma a me risulta che Alvarez sia stato pagato 11 milioni di euro. Se uno c'ha da buttare via, perché questi sono stati buttati via, Alvarez non è un giocatore da Serie A, per la lentezza che ha nel gioco, se sono stati buttati via 11 milioni di euro per Alvarez, aggiungo i 7 per Nagatomo, secondo me con 18 milioni qualche cosa si prende. Ora a me risulta, e lo dico non essendo simpatizzante del Milan, che Nocerino sia costato pochissimo. Sì. Mi risulta che Boateng sia arrivato il primo anno in prestito e il secondo anno con un riscatto abbastanza facile da fare. L'Inter quest'anno ha speso per andare a comprare Forlan, che ha 32 anni e ai primi allenamenti italiani si è regolarmente strappato, come capita a quasi tutti quelli che provengono dalla Spagna. Ora, dire che Benitez sia stato espulso, rispetto alle opinioni di tutti ci mancherebbe altro, ma sia stato espulso come un corpo estraneo e che i giocatori dell'Inter avessero la testa libera quando è arrivato Benitez, francamente mi sento di dissentire, perché mi risulta che Mourinho, cosa che poi faceva anche dopo nel periodo Leonardo, telefonasse regolarmente, avesse un filo diretto continuo con i suoi ex giocatori, quindi insomma dire... E poi non solo loro, ma tutto l'ambiente, era tutto un ricordare Mourinho, un ricordare il triplete, un ricordare ricordare là. Se tu scegli Benitez è chiaro che lo devi assecondare. Sì. Il poi problema è chi sceglie Benitez, Andrea, chi sceglie Benitez, io ho la sensazione che né Benitez né Gasperini siano stati scelti da Moratti. Ho capito, però sai, chi sceglie Benitez, io non so chi l'abbia scelto, francamente di queste cose di mercato preferisco non occuparmi e starne alla larga, però sono poi anche quelli che hanno scelto Alvarez, quelli che hanno scelto Nagatomo, che giocava nel Cesena, ma va bene in una squadra media Nagatomo, non può giocare nell'Inter. Sono quelli che hanno scelto Forlan, sono quelli sono questi, insomma. Cioè, l'anno scorso sembra quasi che Moratti abbia fatto un dispetto a Benitez, perché è andato via Benitez a comprare 4 giocatori a gennaio. Questo è così, ma infatti la sensazione che ho avuto io dall'esterno è che questo non mi va, non glieli compro, quell'altro mi va, allora gliene compro un paio, Gasperini no, non se ne parla, e adesso vediamo a gennaio, ma oggi c'era un bel fair play finanziario, ci mancherebbe altro, ma facciamolo davvero, perché se il fair play finanziario è andare a buttare via 11 milioni per Alvarez, oppure anche questi nomi che continuo a sentire, assolutamente improbabili, di giocatori che tra l'altro io ho visto, perché facendo questo di mestiere mi documento anche con i DVD eccetera, sono giocatori che vanno bene in Sud America ma hanno un passo che è estremamente ridotto rispetto al passo che va bene in Italia, non possono funzionare. Non è detto che il travaso funzioni, e l'esperienza di Ricky Alvarez mi sembra lo stia dimostrando. Andrea, devo chiudere l'ora e ti ringrazio. Buon viaggio. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Schianchi. Giovanni, diamo per finali tutti, vero? Juventus 2-0. Sì, in realtà si sta giocando ancora a Firenze, dove si aspettano, mancano una trentina di secondi, però la Fiorentina sta facendo torello nella sua metà campo. E quindi diciamo c'è anche la volontà di non infierire su una squadra che è rimasta in otto. Sì. Fiorentina che conduce 3-0, ti do gli altri finali rapidamente. Allora Bologna-Siena 1-0, Chievo-Atalanta 0-0 e la vittoria 2-0 della Juventus. Perfetto. Con il Cesena. Grazie a Giovanni Capuano, ci fermiamo per il GR, a dopo. Tempo di sport. Allora Salvatore, stavamo dicendo prima che Luis Enrique ci interrompesse, sì, scandaloso poverino, cosa? Luis Enrique poverino. Poverino. Comunque, no, ci mette del suo, poverino. Sì, ci mette. Poverino ricco di soldi, via. Beh. No, ma al di là dei soldi ci mette del suo, perché poverino sì, però la formazione la fa lui. Ci mette del suo tantissimo, comunque non è l'uomo che può stare in Italia secondo me. Al di là di questo, dicevo, non vorrei che ritornassimo negli anni che furono con tutti pro Juventus. Oggi l'arbitro è stato vergognosamente pro Juve. Non si può andare avanti così. Ripeto, non è che abbia interessi né per la Juve né per il Juve, però non si può, dai. Ah, non si può. Secondo Salvatore Lacuna, non si può. Qui stiamo cadendo di nuovo negli anni che furono. Restaurazione bianconera. La signora è tornata anche in queste cose. No, in realtà Doveri ha preso un abbaglio su quel rigore ed espulsione. Poi sull'episodio chiave che sblocca questa partita, che si era un po' incarognita, ripeto, per molti motivi, su quello l'arbitro non c'entra nulla perché è una magata di Marchisio. Grazie Salvatore. Maurizio Crosetti, penna illustrissima di Repubblica, buonasera. Eccoci, grazie, buonasera. La Juventus è tornata, hai sentito? Beh, è tornata. Ma è tornata anche in queste cose? Sì, ma forse, non lo so, no, è che mi hanno talmente estenuato queste cose in passato, che vorrei far finta che non ci fossero mai state, e vorrei far finta che non ci saranno mai più. Sì, sì, no, va bene. Non è così, no, ma sa, è tornata, il calcio è... Ci stiamo scherzando sopra, noi possiamo, poi sì, ci sono quelli che non riescono. Questo, serve anche questo, una svista arbitrare, un errore. Un bel tiro di Marchisio, insomma tante cose insieme, no? Però insomma, indubbiamente la Juve è tornata anche di per sé, ecco, insomma, sì. Mi pare che abbia dentro delle cose che non aveva da un sacco di tempo, sì, e poi neanche qualcun altro fuori adesso. No, poi Maurizio, anche quella sana fortuna che serve, no? Giochi a Napoli, quel rimpallo, Pepe bravissimo, bam, bam, bam, bam, e poi c'è questo 3-3 di bravura e di fortuna, giochi contro la Roma al prossimo giro e questi suicidano. Mi hai tolto le parole di bocca, oltre che i giocatori della Roma di squadra, stavo per dire la stessa cosa. Ci sono annate in cui le cose girano, ora questo non so se porterà lo scudetto bianconero. Però nelle annate in cui si vincono gli scudetti impensabili, di solito funziona proprio tutto, anche queste cose qui. Sì, sì. Sono segnali, eh. Ah certo, chiamatele se volete sensazioni. Anche. Anche se la mia sensazione resta quella di un Milan più forte, quindi la Juventus dovrà andare a strapparglielo dalle mani. Anche la mia, e soprattutto la sensazione di un Milan che può vincere, non dico passeggiando, ma può vincere anche le brutte partite. La Juve non può permettersi questo. Oggi infatti ha rischiato di non vincere una brutta partita, ha un peso, un tasso di classe inferiore, meno soluzioni, meno capacità realizzativa in attacco, anche se c'è questo Marchisio che è arrivato a 6 gol e lui sta segnando effettivamente come una punta, però anche qui non è pensabile che lui possa andare avanti a questo ritmo. Insomma, dovranno per forza arrivare i gol di Vucinic, che non ci sono quasi stati. Sì. Matri dovrà rimanere, credo sia un errore toglierlo oggi, dovrà rimanere in campo sempre perché è un po' il punto di riferimento. E poi c'è questa maledizione del Piero, poveretto, che oltre a essere anche un po' il Calimero della Juve, nel giorno in cui finalmente non gli concedono solo i minuti di recupero, si piglia pure il calcio in testa, insomma non è proprio la sua annata. Sì, la sensazione è comunque che la Juventus riesca ad essere se stessa solo vivendo in maniera emotivamente molto intensa, così come il suo allenatore le partite, un po' come il Napoli, riesce a vivere solo molto pericolosamente e molto intensamente la Juventus. Sì, adesso in pieno form e siamo ai primi di dicembre, questa intensità ai massimi livelli un motore io non credo possa reggerla tutto l'anno, forse anche questo può essere un limite rispetto al Milan. Però abbiamo visto in passato che altre Juventus, forse anche più forti di certamente anche più forti di questa, la seconda Juventus di Lippi, però queste intensità riuscirono spesso a mantenerla anche con organici più ampi e con un tasso di classe medio superiore rispetto a questa Juventus. La fortuna potrebbe girare se la Roma decidesse di cambiare allenatore, magari. Ma insomma, Luis Enrique piace moltissimo ad alcuni, sentendo le cose da lontano, no? Molti lo raccontano davvero come un grande stratega, un innovatore, uno che ha delle idee. Io visto da lontano, ripeto, no, dalla mia remota osservazione torinese, non vedo questo, non mi sembra che sia tutto sto fenomeno e che ci fosse anche tutto questo bisogno, no, di portarlo qui per farci insegnare come si scalda l'acqua calda, come si intiepidisce l'acqua calda, anche se poi in realtà quest'acqua è sempre fredda, no? Ah, mi pare di sì. Non combina quasi mai nulla, non lo so, molte idee, ma soprattutto molto confuse, dà l'impressione di non capirsi neanche, in fondo neanche lui qualche cosa, 13 formazioni in 13 partite, poi quando i giocatori vengono spostati spostati dai loro ruoli in questo modo così perentorio. Insomma, esperienza insegna che c'è sempre un po' il sospetto che sotto l'allenatore voglia un po' fare il fenomeno. Sì, sì. E questo non è mai un bel segno. Poi ripeto, magari invece si riprenderà e dimostrerà di essere uno con davvero un innovatore, chi lo sa. Sì. Ho i miei dubbi, poi comunque le grandi piazze non concedono il tempo per fare questo. Maurizio, un'ultima cosa che ti voglio chiedere a te da scrittore di calcio. È stata molto letteraria la partita di ieri sera a San Siro, quegli ultimi 5 minuti, l'espulsione di Zanetti. Insomma, a modo suo, la fine di un ciclo molto crudele, come solo lo sport può essere, sa essere anche molto affascinante. Se la guardi da fuori non sei tifoso dell'Inter, naturalmente. Sì, è quel fascino che qualche volta scivola un po' anche nel comico, nel tragicomico. Cioè, sì. È come se l'Inter fosse tornata quella squadra di gatti silvestri, di Willy Coyote, che era prima di Mourinho, prima di vincere tutto, però tutto troppo insieme, forse, no? Sì. Tutte quelle tre cose, una dietro l'altra, come quando si va ai buffet e ti squadernano queste meravigliose paste, vassoi, salatini, allora non sai dove girarti, mangi tutto e poi però poi non è così che ci si alimenta. Ma a parte gli scherzi, credo che sì, sia una specie di ritorno al futuro, ritorno al passato di questa Inter che oggi assomiglia più a se stessa di quando vinceva, no? Certo. Sembrava quasi, a questo punto sembrava quasi l'Inter vincente l'anomalia, non l'Inter gatto silvestre. Sì, sì, certamente. E dall'altra parte invece l'Udinese, che è una squadra che ha le idee molto chiare, sa dove andare, e il traguardo non può essere realisticamente lo scudetto per l'Udinese, però io ci sono tre giocatori per i quali impazzisco dell'Udinese, sono Isla, Armero e Asamoah. Fossi l'Inter li piglierei subito, poi non so se l'Inter ha i soldi da dare a Pozzo, questa è un'altra storia. È vero, sono tre ottimi giocatori, ma ce ne sono ben altri, e questa è ormai lo sappiamo, no? È una macchina di scouting, di costruzione di giocatori, di luminose idee, di competenze, di rete sul territorio mondiale, di segnalatori, così si chiamano, proprio sono persone che lavorano per l'Udinese, qualche volta anche amici, ex dipendenti, neanche tutti a libro paga, tra l'altro, una specie di catena di Sant'Antonio mondiale. E poi ho scoperto che in quasi tutte le formazioni giovanili ormai c'è un lavoro proprio specifico sul Triveneto, cioè il 90% dei ragazzi, ma forse di più, sono tutti allevati proprio su base locale. Poi uno guarda la prima squadra, invece sono tutti stranieri, un po' esotici, arrivati sconosciuti all'inizio, però questo mix, no, di local, come si dice, sì. E alla fine è un modello davvero raro, sarebbe molto bello se questo modello portasse a un miracolo che non potrà essere lo scudetto, però ecco, questa sarebbe una cosa bellissima. Sì, sì. Cioè, se il calcio potesse concedersi, come ai tempi del Verona, della Sampdoria, una cosa del genere, penso che sarebbe la più bella cosa da augurare al campionato. Sì, non ce ne vogliono i tifosi delle grandi, da qui agli europei, ma forse anche oltre, però sarebbe troppo importante, non succederà. Ma io faccio un tifo dannato per l'Udinese, però continuo a pensare che allo scudetto nel 2011 in questo modo meraviglioso non si possa arrivare, sarò cinico, insomma. Maurizio, ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi, alla buon prossima. Lavoro. Grazie Maurizio Crosetti. Sta parlando degli Orossi e poi parleranno gli ascoltatori. Anche come atteggiamento, però dal punto di vista del gioco dobbiamo migliorare. Io sono particolarmente contento oggi per i ragazzi, perché hanno lavorato molto in questi 15 giorni. Poi quello che voglio io in questo momento magari non riesce, ma sono convinto che se c'è questo atteggiamento ci riusciremo. Certe decisioni che sono state prese dal punto di vista disciplinare possono in qualche modo unire il gruppo, anche se abbiamo la risposta diametralmente opposta dall'altra parte con Osvaldo e la Roma, ma alla Fiorentina hanno avuto questo effetto secondo lei? No, non è stata presa nessuna decisione disciplinare, nel senso che ci sono delle regole, e penso in una società civile ci sono delle regole, a una infrazione di una regola lieve c'è l'ammonizione, all'infrazione di una regola grave c'è l'espulsione, anche perché un gruppo deve darsi delle regole, perché se no non è professionismo. Ilaria. Però queste le risposte molto chiare di Deglio Rossi anche sui ballerini della Fiorentina, sui nottambuli della Fiorentina. anche qui un po' di cinema e di romanzo settimanale tra Cerci e Lazzari e tutti gli altri che si sono dati un po' alle feste, lo stesso Carja e così via. Giorgio, a Spezia, buonasera. Buonasera, salve. Dica. Senta, io volevo parlare in generale della situazione del calcio italiano, che mi sembra abbastanza, ormai mi sembra molto a bassi livelli, con stadi vuoti, che bisognerebbe insomma fare una situazione dove trovare, far tornare le famiglie a vedere le partite di pallone. Sì, questi sono discorsi certo non nuovi, no? Come Nocerino ha detto, mio figlio non lo porterei mai allo stadio, perché sono così confrontate, usiamo questa parola inappropriata, le tifoserie di Genoa e Fiorentina l'altra sera. Sì, Giorgio, sì, ha ragione, esatto. Però insomma, i discorsi degli stadi brutti, dei tornelli, della testa del tifoso, delle difficoltà di accedere allo stadio, dei costi, degli spettacoli, insomma, sono tutti discorsi che abbiamo fatto molte volte. Però trovo che in tutta questa tristezza ci sia un calcio italiano che non sta vivendo un brutto periodo. Vuoi nelle coppe, in settimana speriamo di portare a casa il filotto, no? In Champions League abbiamo una nazionale fresca, che torna a usare le parole di Prandelli, per una volta non gioca contro nessuno, abbiamo un girone dell'Europeo davanti affascinante, insomma mi sembra che abbiamo un campionato che viva Dio, equilibrato, perché io non mi diverto mica tanto a vedere i 5-0, i 6-0, i 6-1, i 6-2 del campionato spagnolo o anche di quello inglese. Dunque non buttiamo via magari proprio tutto. Certo, sì, però bisognerebbe cambiare, nel senso, anche troppe polemiche su qualsiasi cosa. Sì, dovremmo cambiare un po' la testa. Ogni situazione viene una polemica, certo, su tutto. Certo. Ma proprio su tutto, mica solo sul calcio dalle nostre parti, proprio su tutto, ogni cosa diventa una polemica, non ci si mette. Ma siamo fatti così, però sul pessimismo cosmico intorno al calcio italiano, su questa grande depressione, io non sono mai neanche così tanto d'accordo. Poi abbiamo un sacco di problemi. I maestrini d'Inghilterra e Spagna ci vengono a fare le lezioni da vicino o da lontano, però insomma, non, sul campo io mi sto abbastanza appassionando a questa stagione, la trovo divertente, piena di spunti, anche vincente se vogliamo, almeno fin qui. E ci siamo persi un po' dell'intervento di Antonio Conte, che comunque tra poco vi faccio sentire attraverso i microfoni di Sky. Massimo da Roma è già in linea, 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire, potete mandargli sms 349 238 6666, e poi Facebook e Twitter sempre connessi con voi, pagina di Facebook di A Tempo di Sport, e poi seguiteci su Twitter. Vediamo se riusciamo a sentire qualche dichiarazione di Antonio Conte, che oggi, tra le altre cose, ha riconquistato il primato solitario Juventus 29, 2 punti in più della coppia Milan-Udinese a quota 27. Poi la Lazio, che giocherà domani, 22 punti, il Napoli che sarà 20, Palermo 19 e giocherà questa sera a chiudere la giornata, 17, Cagliari, Roma e Catania. Quindi Fiorentina, Chievo 16 punti, Atalanta, Parma, Genoa 15, Siena, Inter e Bologna 14, Novara 10, Cesena 9, Lecce 8, Conte. Pazienza non può pensare di fare il Pirlo, e quindi gioca da pazienza, che basta e avanza. Infatti il ragazzo ci ha dato quantità, ci ha dato qualità, ci ha dato ordine, grande senso tattico e grande intensità, e di questo sono molto contento, quindi ero molto sereno da questo punto di vista. Il ragazzo ha risposto in maniera importante, come tutta la squadra, però è inevitabile che Andrea Pirlo ha determinate caratteristiche, no? Pirlo ne ha altre. Io l'unica cosa che ho chiesto a Michele, a pazienza, ho detto: Michele, devi fare pazienza, noi non ci aspettiamo che tu faccia Pirlo, né tantomeno tu puoi pensare di fare Pirlo. Lui, secondo me, non ci ha pensato neanche un secondo. Un giocatore importante. Però va detto anche che la verifica della... Che pazienza non faccia il Pirlo, mi raccomando. Sentiamo ancora Conte. Possono essere per altri motivi ostici, però Ilaria, il movimento titolo... senza Pirlo, che affronta magari squadre tecnicamente più attrezzate, forse. Però mi pare che il titolo forse lo meriti Marchisio. No, Antonio, penso che il titolo meriti Marchisio, perché devo dire che si sta erigendo al leader, ma non solo per i gol, secondo me, no? Anche ha ragione Massimo. Mauro Marchisio mi sembra il vero valore, non mi sembra, è il vero valore aggiunto di questa Juventus, 6 gol in 12 partite, tra l'altro. Compreso quello che ha sbloccato quella di oggi. Che vengono a Torino, e questa è una grande dote. Però è proprio questo poi il problema, che avendo tanti giocatori dietro la linea della palla bisogna fare lo stesso occasioni da gol. Oggi sì. Oggi non tante come le altre volte, forse perché erano stanchi, devo dire. A me Matri, Vucinic mi sono sembrati un po' stanchi. Più statici. Ma guarda Massimo, questo è trovare il pelo nell'uovo, lo so, ma se no, no non no, si no, può parlare troppo in positivo, è bellissimo. Il diabete, dici. Sì, ma alla fine del primo tempo, al di là del fatto di dire ai ragazzi di essere tranquilli, sereni, non farsi prendere dall'ansia e dal nervosismo, perché il gol l'avremmo trovato, ho chiesto anche ai miei calciatori, soprattutto agli esterni, di stare larghi, perché il primo tempo ci intasavamo molto molto per vie centrali, praticamente costringevamo tra virgolette, e facevamo un favore secondo me anche al Cesena, di stare molto stretto, sì. E sulle palle alte andavano molto, cioè con Von Bergen, con Ramirez, lo stesso Rossi, lo stesso Lauro, giocatori molto forti di testa, andavamo in difficoltà. Però va bene, va bene così. Antonio, ti faccio vedere sì, una cosa. Antonio, Billy ti vuol far vedere. Sì, far vedere questo Antonio Conte. Io invece vado da Massimo da Roma. Buonasera. Buonasera. Dica. Senta, ci siamo sentiti tempo fa quando Benitez era quasi esonerato. Sì, Benitez. Sì, Benitez. Eravamo rimasti a Benitez. Sì. Magari sbagliava e lei aveva così risposto: ah, ma i soldi sono soldi e la piazza deve essere accontentata. Secondo me, se l'Inter come la Roma non si affidano a degli allenatori veri, praticamente non ne usciranno mai. Anche se il calcio è uno sport particolare, ma è sempre uno sport, bisogna affidarsi a gente che è capace ad allenare. Beh, perché Benitez non era capace. Bisogna tenerlo. A me sembra strano aver detto che la piazza deve essere accontentata, perché io non sono dell'idea che le piazze vadano accontentate. Questa è la mia idea abbastanza radicale, però è mia e me la tengo. Quindi dubito di aver detto che la piazza doveva essere accontentata. Più che altro Benitez, così come Gasperini, era un allenatore che non piaceva a chi mette i soldi, quindi è stato esonerato, così come è stato esonerato Gasperini. Poi sul fatto che Benitez fosse un signor allenatore in certe condizioni non credo ci possano essere discussioni. Conte ride, cosa da dare da ridere? Se l'è cavata così. Va bene. Ciao. Grazie Conte, ci vediamo lunedì. Questi erano alcuni brani del pensiero di Antonio Conte. No, torno a ripetere. Non credo che Benitez, l'arrivo di Benitez è stato condizionato da molte situazioni che non hanno permesso a Benitez, che forse si è presentato con un po' troppa presunzione, ad un ambiente, ad un gruppo che aveva appena vinto la Champions League con un allenatore estremo come José Mourinho, ed è stato in qualche modo rimbalzato da quell'ambiente stesso. Poi è evidente che aveva chiesto certi giocatori e certi investimenti, Moratti non li ha fatti, ma così come non li ha fatti per Gasperini, che pure di giocatori e di investimenti ne ha chiesti un po' meno. Dunque vedo Baldini che sta parlando con Sky e sono curioso di sentirlo sulla, dirigente in questi sui momenti, problemi Baldini. Della Roma. Ma viene in mente che almeno con me Massimo, Mauro, Luca non dovranno fare l'esercizio di trovare il pelo dell'uovo, probabilmente avranno delle domande che potranno essere piuttosto insidiose senza andare a cercare un particolare. Comunque questo che viene in mente è l'amarezza, ovviamente il dispiacere, perché comunque rappresentiamo una società che ha un seguito importante, i tifosi, oggi i tifosi ovviamente hanno tutto il diritto di non essere contenti. Poi che fosse stata una impresa tra virgolette difficile da costruire, da portare avanti, questo lo sapevamo, ovviamente ogni volta che perdiamo lo diventa molto di più. Però c'era l'idea di costruire un gioco più che mettere insieme tanti giocatori. E questa continuiamo a pensare che sia la strada giusta e vogliamo cercare di portarla avanti. E le vostre certezze non vacillano minimamente? Non si tratta di certezze, si tratta ovviamente di dispiaceri che si provano in giornate come queste. Nessuno è felice, l'allenatore per primo, però crediamo che questo rappresenti un qualcosa di buono che vale quantomeno la pena di provare. Ultima cosa prima dunque della... la Roma continua con Luis Enrique, che è stato, avete sentito, confermato da Baldini. Se mai era stato messo in discussione Luis Enrique, che tra l'altro ha dichiarato, tra le altre cose, che su Totti non era al 100%, era in settimana, non si era allenato per un colpo alla caviglia operata, non poteva giocare dall'inizio, nel riposo ho pensato che non sarebbe stato giusto per lui farlo entrare con noi in 10 già sullo 0-2, quindi Luis Enrique l'ha data su e ha risparmiato il secondo tempo al capitano. Questa è la spiegazione plausibile, peraltro, perché non avrebbe avuto senso con la squadra che oggi Luis Enrique era costretto o si è costretto a mettere in campo senza attaccanti, rinunciare a Francesco Totti. Evidentemente bene non stava. Roberto da Vicenza, buonasera. Buonasera, sergente. Facevamo una considerazione, io e mio figlio, mangiando oggi. Sì. Allora... Mangiando cosa? Stavamo mangiando a mezzogiorno all'una lì, guardando la partita che c'è a quell'ora lì. Sì, Catania-Cagliari. Sì, però si parlava dell'Udinese, si parlava un po' del campionato in generale. Sì. E mio figlio mi ha detto, la Juventus non vince il campionato. Ah. Gli ho detto, perché? Da juventino come sono io e lui, perché? Ma non la vedo forte. Io oggi ho visto la partita, ha sofferto. Beh, ma normale, Roberto. Ma sa cos'è che avete un po' paura di esporvi, voi come Antonio Conte, ma anche giustamente, perché avete preso talmente tante bastonate negli ultimi anni, che stentate ancora un po' a crederci, no? A capire esattamente questa squadra quanto vale, che vale a capire questa squadra effettivamente, magari con un paio di correttivi a gennaio da corsa. Signor Genta, dica. Ma mi ha detto, vedo meglio l'Udinese della Juventus a vincere il campionato. Vede meglio l'Udinese, beh, l'Udinese gioca un calcio meraviglioso, quanto può reggere a questi livelli, no, io non lo so, non credo fino in fondo, non credo. Vede meglio l'Udinese, io vedo meglio il Milan. Cioè, io credo che la Juventus dovrà, la grande impresa della Juventus sarà quella di strappare lo scudetto dalle mani ad una squadra più forte come il Milan. Questo credo. Sulla carta è molto più forte, per carità, però c'è un vantaggio secondo me che è grandissimo. La Juventus non ha nessun non ha le coppe, certo. Certo. Quindi può giocare una partita ogni 7 giorni, lasciamo stare la Coppa Italia che può metterti i ragazzini. Ma perché ormai la Coppa Italia non la prova di quanto lei dice è la partita di oggi, la Juventus che ha dovuto giocarne invece per questioni di calendario 3 in una settimana, ha dovuto giocare martedì col Napoli, una gara molto difficile dopo quella dell'Olimpico di sabato scorso, e oggi è stata una partita molto più complicata di quanto si potesse attendere. Ma poi che si debba vincere soffrendo, si debba vincere in casa con Cesena soffrendo, questa è la storia di ogni scudetto, insomma. Non vai a vincere 4-0 ogni partita, lei lo sa meglio di me, no? Quindi ci sta che la Juventus soffra in casa come ha sofferto oggi in casa col Cesena, soprattutto nel primo tempo, ci sta che abbia avuto delle situazioni contrarie come l'infortunio del Piero appena entrato, come il fatto che si è trovata comunque a dover girare gli attaccanti e dunque la squadra, però è uscita da questa... Da questi piccoli inconvenienti di percorso ed è andata a vincere una partita fondamentale con il Cesena, ha recuperato la vetta della classifica. Torno a ripetere, secondo me sono segnali, secondo voi no, ma possiamo parlarne. Io mi sto divertendo moltissimo nel leggere l'ultima polemica a distanza tra Pelé e Maradona, con Pelé che ha detto, non l'avrete letta magari sui giornali, con Pelé che ha detto Neymar è grande, più bravo di Messi, questo Pelé, ma la risposta di Maradona. Dunque, il problema di Pelé è che anziché prendere la pillola per dormire ha preso quella del mattino, si è confuso e non sa di cosa sta parlando. Io vorrei dargli un paio di consigli: prendere le pillole giuste prima di cominciare a parlare e cambiare medico. Neymar è bravo, ma non sarà mai capace di uguagliare Messi. Diverte moltissimo sta polemica a distanza tra i due grandi vecchi del calcio mondiale. 800 24 0024 numero verde, messaggi 349 238 6666. Alberto da Brescia, buonasera. Dottor Zeta, buonasera. Buonasera. Io volevo riferirmi all'ascoltatore prima che ha ricominciato a tirare fuori i complotti, sì, arbitraggi e cose varie. Buttiamola su ridere, la prego, ma no, non è questione di complotti, no, semplicemente dice, la signora è tornata anche con qualche fischio a favore. L'esempio eclatante quello di ieri sera, l'esempio eclatante, sì, quello di ieri sera, quando un attaccante come Pazzini, sì, sbaglia in rigore in quel modo. Cioè, questo per dire cosa, che anche gli arbitri sono uomini, quindi è logico che possono sbagliare. Ma certo, questo è il pensiero che vogliamo avere tutti quanti, e poi il calcio è un gioco meraviglioso anche per questo, perché sono arbitri che sbagliano, tifosi che si incazzano e Pazzini che scivola sul dischetto in quel modo assolutamente comico in 5 minuti che sono stati una specie di film, dicevo, per l'Inter e per l'Udinese, no? Bellissimo proprio per questo, Alberto. Dunque, la signora è tornata anche la signora Tenivella, che è collegata con noi dagli spogliatoi proprio dello Juventus Stadium di Torino. Ciao Giancarla. Sì, ciao, noi siamo in attesa di Claudio Marchisio, lo vediamo praticamente nella postazione prima della nostra, per cui siamo in attesa di poter parlare con lui, certo. Con l'ombra del partito, naturalmente lo sentiremo appena possibile, quindi rimani collegata con noi, appena ci sarà l'ombra del partito, di queste e di molte altre lo sentiremo in diretta con noi. Davide Savona intanto, buonasera. Buonasera, niente, volevo solo parlare un po' in generale del campionato. Io sono un tifoso juventino e comunque vorrei dire che secondo me il nostro campionato, alla fine, che tante volte viene un po' imparato male, non mi sembra poi, come diceva lei, insomma, un buon campionato, ecco. No, ma io semplicemente guardi, io semplicemente dico che non condivido il pessimismo cosmico che si fa colare sul campionato italiano, facciamo schifo, giochiamo male, eccetera, eccetera, eccetera, siamo depressi, non vinciamo in Europa. Mi sembra che il calcio italiano, anzi, in questo autunno europeo abbia preso un po' di antidepressivi, molto per merito del Napoli, certamente per merito del Milan e dell'Inter, no? Insomma, siamo messi benissimo alla vigilia dell'ultima settimana di Champions League, abbiamo una nazionale che per la prima volta forse mette d'accordo tutti, insomma, ci sono tanti segnali positivi, abbiamo i nostri problemi, da stadi che sono dei porcini a sempre meno interesse per questo e per altri motivi intorno alle partite, abbiamo i nostri problemi certamente, compresi quei dementi che spesso infestano le nostre curve, però non mi sembra il caso di dire, insomma, di continuare in questo pessimismo cosmico che ci tiriamo addosso tutte le volte che insomma ci confrontiamo con l'estero, perché torno a ripetere, secondo me il campionato spagnolo infarcito di 5-0, 6-0, 8-0 a me non diverte poi tantissimo, non mi sembra un grande spettacolo calcistico. Vedo che sta per parlare, cosa ne pensa Davide? Sbaglio? Sì, no, io guardi, sono d'accordo con lei, perché anche quando prima che ha fatto insomma, chiediamo un po' agli altri com'è giocare contro le squadre italiane, chiediamolo ottenendo anche delle risposte che potrebbe darci, avendone voglia, Mancini con il suo Manchester City, potrebbero darci quelli che ci hanno incontrato di recente in Europa, lo stesso Barcellona, che insomma ha iniziato con il 2-2 casalingo con il Milan, poi il Milan ha deciso di giocare una partita piena di lustrini a San Siro, è stata comunque una splendida partita e il Barcellona l'ha vinta. Insomma, mi sembra che le squadre italiane siano tornate delle brutte bestie da affrontare in Europa, nazionale compresa, se Dio vuole. Sta parlando forse di Vaio con Sky, che oggi ha fatto un gol meraviglioso, oltre che decisivo. Lo dicevamo allora, ma tra l'altro adesso... Ilaria, colpo di tacco di Diamanti, un giorno in cui se n'è andato Socrates, che ha fatto del colpo di tacco la sua genialità. Questo è un ricordo. E ci sta il ricordo, il dottore è stato ricordato, anche oggi ovviamente dalla curva dei tifosi della Fiorentina. Si è spento una notte, è stata una notizia così tristissima con cui si è aperta la domenica. Io non so se Marchisio è arrivato ai nostri microfoni, non abbiamo più notizie da Torino. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo ancora, io conterei però di riuscire a recuperarlo o prima o dopo il giornale radio. Intanto sentiamo Di Vaio. Nosotti, ci sei lì prima di andare da Nedved, tu che hai visto a bordo la partita. Stavo notando che ha gli stessi punti dell'Inter il Bologna intanto, eh. Si lo dice, quanti sono? Pochi o tanti? Sì. Dipende dai punti di vista. Chiediamo appunto a Di Vaio se questa quota 14 è significativa più per voi, per il fatto che c'è anche l'Inter, per il fatto che si allontana la zona salvezza, perché oggi era uno scontro salvezza che dovevate vincere assolutamente. Anche l'Inter lì è un caso, dunque noi che siamo a 14 punti va bene in questo momento, perché dobbiamo vincere questa partita oggi a tutti i costi contro una diretta concorrente, perché avevamo perso il derby due settimane fa in casa, e in casa avevamo perso tante partite, dunque dobbiamo invertire un po' la tendenza dell'ultimo periodo, e sappiamo che da qui in casa passano la nostra salvezza, cioè con le vittorie, dunque dovevamo vincere a tutti i costi oggi. Abbiamo sofferto contro una squadra ben organizzata che ha giocato un buon calcio, però alla fine la nostra voglia di vincere è emersa su ogni palla, e abbiamo sofferto tanto tutti insieme, e alla fine abbiamo portato a casa questi tre punti fondamentali. Grazie. Piccola curiosità. Questo era Di Vaio. Noi invece abbiamo il GR in linea, insomma Marchisio, magari dopo il giornale radio, speriamo di riuscire a farcela. Intanto dopo il giornale radio certamente altri ascoltatori, 800 24 00 24, questo è il numero verde, ancora un'ora per parlare insieme di calcio, di questa. Torniamo insieme, rieccoci qui, 800 24 00 24, numero verde. Gabriele da Ventimiglia, lo vedo già in linea, messaggi 349 238 6666. Ancora un'ora tutta per voi, eh. Vi voglio numerosi, belli carichi in questa seconda ora di A Tempo di Sport. C'è Massimo, credo. Si firma che ha una ricetta per l'Inter. Allora, per prima cosa l'Inter deve smettere di usare queste divise scure notte fonda che piacciono tanto a Moratti, che portano una sfiga tremenda. Secondo, l'Inter deve giocare il pallone a raso terra costruendo il gioco, che è l'unico modo in cui i nerazzurri, blu notte, pardon, giocano bene. Sì, giocare palla a terra, però come prova a fare in maniera lentissima, però con un'altra velocità, e secondo me in fondo anche con altri interpreti, perché all'Inter manca creatività, manca velocità, manca cambio di passo, manca quasi tutto a quest'Inter di fine corsa. Gabriele, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io volevo intervenire sul discorso fatto prima da lei in merito alla competitività del campionato italiano. Sì. E volevo semplicemente supportare la sua tesi. Secondo me una trasferta di una grande a Lecce, a Bologna, è decisamente più difficile rispetto a una trasferta di una grande contro una piccola in Spagna o in Inghilterra. Questo lo dico, preparata in una maniera differente, e va giocata bene, se no si rischia di non vincere. Sì, no, poi qui possiamo cominciare a fare discorsi filosofici che non ho voglia di fare, su cos'è il bel calcio, su che cos'è il divertimento, se è bello. Ciò che è bello ciò che piace. Possiamo fare discorsi lunghissimi su questa acqua calda, no? Per me lo sport è spettacolo agonistico. In Italia abbiamo questo tipo di spettacolo che magari non piace tanto agli esteti, però è secondo me il senso di tutto, perché in Spagna vediamo molte partite tra virgolette finte, con l'atteggiamento delle piccole, che è quello di chi va sul campo della Madrid e dice vabbè, tanto ne prendo 4, 5 o 6, vado lì e provo a giocarla e faccio la mia figura in questa maniera. In Inghilterra il discorso non è poi molto diverso. D'altra parte c'è una grande disparità delle forze in campo, perché è anche vero che quelle 5-6 squadre che sul serio sono attrezzate per vincere la Champions League sono corazzate negli stagni, questa è un'immagine che ho usato anche troppe volte, negli stagni dei rispettivi tornei. Secondo me, insomma, il campionato italiano non è certamente il più bello del mondo, è però, per usare un altro luogo comune strabusato, il più difficile. Forse sì, e questa stagione europea lo sta dimostrando. È un po' esagerato magari dire il calcio italiano è tornato, perché non siamo competitivi con nessuna delle nostre, secondo me, per la Champions League, per la vittoria finale di Champions League, però ci stiamo togliendo le nostre brave soddisfazioni. Speriamo che, insomma, in settimana il Napoli, che non ha un compito facile, non vi illudete, al di là delle cose dette, dei dubbi avanzati da De Laurentiis in settimana, e mi hanno detto che gli sceicchi stanno tramando nell'ombra per indurre il Villarreal a giocare fino in fondo questa partita. A me sembrano abbastanza sciocchezze, però il Napoli ha un compito non facile, che è quello di andare a vincere, di essere costretto a vincere in Spagna, a vincere sul campo del Villarreal, che fin qui sta giocando una stagione disastrosa, però non è semplice dover andare in trasferta con l'obbligo di portare a casa i tre punti. E sarebbe un peccato pazzesco se questo Napoli non passasse il turno in Champions dopo quello che ha fatto e che ha costruito. Marco Bergamo, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Dica. Volevo fare una battuta inizialmente per, diciamo, stemperare un po' gli animi su queste, sempre su queste polemiche. Io direi che a questo punto quali? La propria squadra... Quali, Marco? Quali? Quali, le quali, polemiche quali? Arbitrali, le polemiche arbitrali. Bah, non mi sembra che ce ne siano poi tante oggi, no? Se la propria squadra gioca il venerdì e il sabato, magari la domenica si può anche andare a fare un giro in centro, a bersi una cioccolata e non stare a casa a rondersi il fegato, no. Dai, insomma. Oggi appunto direi parlare di polemiche... Lei questo lo chiama stemperare? Sì, dai, forse, insomma... si prende un po' tutti meno sul serio, dai, insomma, ma adesso è un bel campionato divertente, appunto. Cioè, e per forza lei è juventina in testa alla classifica. Eh sì, ma sono uno juventino ottimista, lo voglio dire che anch'io quest'anno vedo dei bei segnali. Merce insomma, rara, cioè, merce rarissima, no, esatto. Ma secondo me gli juventini sono tutti ottimisti, è che non lo dicono? Infatti, ha ragione. No? No, sembra girare bene, poi io onestamente mi diverto con la Juve quest'anno, almeno, se non altro... gioca palla a terra, molto abbastanza veloce, molto movimento, insomma. È sicuramente una squadra divertente. Condivido con lei che manca però qualcosa per, diciamo, vincere le partite con un po' più di tranquillità. Beh, ma insomma, ma guardi che le partite, possiamo tornare al discorso di prima, anche se mi sembra che abbiamo già fatto, le partite con tranquillità nel nostro campionato non le vince nessuno, nemmeno il Milan, che è superiore alla Juventus, secondo me. Nemmeno l'Inter che stradominava tutto vinceva le partite con facilità. Passeggiando, esatto. Ma da questo punto di vista volevo chiederle a questo punto, questa parte del campionato, diciamo, lei dove interverrebbe a questo punto al mercato di gennaio? Serve qualcuno che ne butti dentro di più senza dover aspettare i centrocampisti, o meglio puntellarsi con un centrale in difesa un po' di livello internazionale? Insomma, io sono un po', non so, dubbioso, ecco. Dove dovrebbe fare il salto secondo lei la Juventus? Ma secondo me la Juventus dovrebbe fare salto in difesa, dovrebbe fare la Juventus avrebbe bisogno di un centrale di livello europeo, avrebbe bisogno di un giocatore, butto lì dei nomi assolutamente a caso, di Thiago Silva piuttosto che di nomi prospettivi realizzabili. Sento parlare di Bocchetti, quella è realizzabile. È un buon giocatore, ma non credo quello che ti fa fare il salto di qualità. Vidic, tanto per dire, giocatore di questo tipo, insomma, un assoluto leader difensivo. Poi è anche vero che se il centrocampo, come sta facendo ora, protegge adeguatamente la difesa, tutto sommato non vengono fuori grandi disastri, come non stanno venendo fuori grandi disastri. Ad esempio, trovo sensata la mossa di Conte di spostare Chiellini in un ruolo per lui più naturale, come quello di laterale sinistro, che sta facendo con sempre maggiore convinzione, noto anche in fase di spinta offensiva. Chiellini da centrale a me desta qualche perplessità, soprattutto se appunto non ha vicino il famoso giocatore in grado di elevare il rendimento dei compagni di reparto. Credo che Chiellini-Samuel potrebbe essere una coppia, no? Una coppia forte. Chiellini-Bonucci, Chiellini-Barzagli, eccetera, è una coppia che ha qualche problema. Secondo un altro ascoltatore, che è Giacomo, l'Inter deve rinnovare la rosa puntando sui giovani e sul settore giovanile, eliminando Milito, Zanetti, Cambiasso, Julio Cesar, Lucio, Samuel, Maicon, Cordoba e Snyder. Via tutti! Tabula rasa! Così scrive Giacomo. Ma io magari Snyder lo terrei, poi vediamo, se proprio dobbiamo cancellarli tutti... Vabbè, poi bisogna prenderne degli altri, e se è detto prima, chissà se Moratti ha i soldi. Alessandro Cattelan, quando viene a prendermi? Non lo so, però anch'io terrei Snyder, se posso permettermi. Anch'io Snyder lo terrei molto volentieri. Buonasera. Buonasera a lei, Mr. X Factor. Buonasera. Lei, dove trovi il tempo per scrivere anche i libri? Quello l'ho trovato quest'estate, in cui devo dire sono stato abbastanza libero da impegni e ho cercato di fare uno sforzo, proprio sapendo che poi avrei iniziato con X Factor invece di lasciarmi andare a quel modus operandi di scrittura, tipo aspetto ispirazione, ho fatto proprio l'estate da impiegato, quindi mi svegliavo 8 ore lì e non mi alzavo fin quando avevo finito, quindi sono riuscito a scrivere. Volontà che a me manca, insieme a molte altre cose. Cosa hai scritto? Ma ho scritto questo romanzo che racconta di un giovane uomo più o meno della mia età che fa un lavoro che gli piace ma non riesce a farlo nel modo in cui vorrebbe, ha una storia d'amore che potrebbe andare avanti o anche no, quindi insomma lo lascio con un po' di dubbi e trovandosi un inaspettato gruzzolo di soldi sul conto in banca decide di usarli per partire e fare un viaggio da solo, cosa che non aveva mai fatto, e quindi gira per il Giappone, l'Australia, alla ricerca non sa neanche lui di cosa, nella speranza che il viaggio agisca su di lui come è stato abituato a credere guardando i film e leggendo altri libri, no? Perché nella grammatica dei film e dei libri uno parte per un viaggio e torna che è sempre cambiato. Lui parte con questa speranza e poi si rende conto che la vita insomma è un po' diversa da quello che si vede in televisione e nei libri. Quindi quando vieni a prendermi, questo è il titolo. Alessandro, stai un attimo con noi perché voglio giocare. Intanto andiamo a prendere al volo Marchisio che sta parlando con Giancarlo Tenivella. Sì, cerchiamo molte volte le vie centrali per il gol con degli scambi di prima che nel primo tempo non ci siamo riusciti perché loro si chiedevano molto. Infatti nel primo tempo i pericoli maggiori li abbiamo creati sugli esterni con gli uno contro uno e le palle in mezzo. Poi nel secondo tempo, forse con un po' più di stanchezza nelle gambe del Cesena, siamo riusciti a trovare lo spazio per fare questo gol. Ecco, per l'autoscoletto si parla tanto di questo dualismo fra Juventus e Milan. Secondo te il Milan ha qualcosa in più? Sì, come ho già detto, sicuramente Ibra, che è un giocatore straordinario che fa reparto da solo, ma oltre a lui hanno una grandissima squadra abituata già a vincere con lo scudetto l'anno scorso, ma anche il Napoli, perché comunque abbiamo visto che anche ieri contro le piccole è riuscito a vincere con facilità, e quindi dobbiamo fare attenzione e continuare così con questo ritmo soprattutto che stiamo mantenendo, dove sia nei grandi scontri ma anche con le piccole stiamo raccogliendo punti importanti. Questo Marchisio in diretta con Giancarlo Tenivella, ti piacerebbe Alessandro Cattelan Marchisio per l'Inter? Non è male, cioè a parte in questo momento mi piacerebbe un po' chiunque visto come siamo messi, però Marchisio non è veramente male. Un po' chiunque, questo è il pessimismo cosmico che ogni tanto dell'interista. Bravo, ti senti un po' più ti senti un po' più interista del solito in questi giorni? Mi riconosco in quella che era stata la mia storia da interista, nel senso negli ultimi anni mi sembrava quasi di fare un'altra squadra, invece in questi ultimi giorni siamo ritornati a quell'Inter degli anni 90 con la quale io sono cresciuto. Certo. Che sinceramente ne facevo anche a meno, mi trovavo molto bene negli ultimi anni a guardare tutti dall'alto al basso. No, la stessa cosa che diceva prima Maurizio Crosetti, cioè gli interisti si riconoscono un po' di più in questa dimensione. Alessandro, però prima di salutarti io voglio giocare con te, me lo permetti? Due certo. Minuti. Allora giochiamo. In attesa che Alessandro Cattelan mi venga a prendere, come da titolo di libro, io adesso gioco con lui, il mio sogno. Coutinho Alvarez Castaños. Hanno l'X Factor o no? Uno sì, due no. Qual è quello sì? Coutinho. Secondo me Coutinho ce l'ha. Il ritorno di Mario Balotelli all'Inter, sì o no? Sì. È vero che chiamerai il tuo primo figlio José? No, purtroppo no, perché non me lo concedono. A me era anche venuta la tentazione, però purtroppo si fanno in due queste cose e l'altra metà non è d'accordo, quindi no. Ma il conducente più che condottiero Ranieri è l'uomo giusto per l'Inter e per un ambiente come l'Inter? Nel momento in cui è stato scelto sì, in senso assoluto forse no. Totò Di Natale con la maglia dell'Italia a Euro 2012, sì o no? No. Melissa Satte Boateng, coppia dell'anno o no? Beh, credo di sì. Io non sono molto informato sui gossip, ma mi sembra una bella coppia di assi. E per finire, è Morgan il José Mourinho dei giudici di X Factor? No, è Elio. José Mourinho è Elio. Morgan è più... È uno un po' più... È più trapattoni, è più malesani. E più male sono quelli che ogni tanto si fanno prendere nei 5 minuti, fanno le sfuriate, più malesani o trapattoni. Grazie Alessandro. Grazie a te. Grazie davvero, un abbraccio, è stato ciao. Grazie ad Alessandro Cattelan. Dunque, noi torniamo, dove andiamo? Dopo aver sentito Marchisio, dopo aver sentito Alessandro Cattelan, dopo aver giocato a X Factor, io sto rivedendo il gol che ha deciso la partita di ieri sera a San Siro di un giocatore che a me fa impazzire come Isvan. L'ho detto ieri, adesso non voglio rischiare delle querele per diffamazione, però un giocatore, sto vedendo il gol di Isna naturalmente, un giocatore come Armero, che è un mandingo di una potenza mostruosa, se impara a sfrondare un po' il suo gioco da certe... così da certi fronzoli inutili, se si applica un po' di più, impara un po' di più, e Guidolin mi sembra un maestro giusto in fase difensiva, non vedo perché non possa essere magari il prossimo Maicon o magari il prossimo Cafu, lo so, le sto sparando grosse, però è un giocatore che secondo me è potenzialmente fortissimo in un momento storico in cui gli esterni difensivi sono merce estremamente rara. Lui, Isla e Asamoah, che è già stato corteggiato in estate ad esempio dal Milan e da molte grandi squadre, ebbene sono tre giocatori che io andrei a prendere subito. Poi c'è Torge, il genietto dei Carpazi, poi c'è, lasciamo stare, il Beccio di Natale che lì è perfetto, c'è Danilo, altro giocatore che si era giocato una partita straordinaria e che a me piace da morire, ma è un Udinese che gioca, lo si vede proprio, gioca a memoria. Ieri sera ho notato tre sventagliate ad occhi chiusi, un paio di pinzi e una di Floro Flores dal cerchio del centrocampo, senza guardare, boom, lancio di 40 metri sulla sinistra con Armero che arrivava di corsa, palla sui piedi e superiorità numerica. Spettacolo Udinese. Pasquale, provincia di Salerno, poi Angelo da Bari, torna agli ascoltatori, 800 24 00 24. Pasquale. Buonasera, dica. Io mi facevo una domanda. Questo campionato italiano così difficile, oggi purtroppo io credo che la cosa importante è sicuramente la forza atletica. Sì, la tecnica è importante, ma la forza atletica la fa da padrone oramai. Queste squadre italiane, anche quelle, voglio dire, un po' più forti, non è che con questo campionato così difficile e poi in Champions League effettivamente non hanno poi la forza di far vedere il bel calcio? Perché io dico che noi abbiamo delle squadre attrezzatissime, non voglio parlare del Napoli, del napoletano, ma anche dello stesso Milan, voglio dire la... Beh, ma scusi Pasquale, ma mi perdoni, ma perché il Napoli non fa vedere un calcio meraviglioso? Non voglio dire Napoli, perché poi il napoletano... No, ma diciamo Napoli, sono tre le squadre in Champions League, l'Inter ha approcciato in una maniera corretta un girone onestamente molto facile. Perfetto. Però io dico, questo campionato così difficile, italiano, Serie A, non è che ci porta via energie importanti poi voglio dire che poi fanno venire meno quando queste squadre poi in Champions League nel finale ormai benzina non hanno più, infatti invece le spagnole, sa, in un campionato dove hanno due o tre partite importanti. Guardi, Pasquale, io credo che ognuno debba giocare nel modo che conosce, debba essere se stesso. Sì, ma la forza, squadre... con tutte queste forza. Partite, la forza viene a mancare, capito. Non è come sì. Una volta, voglio dire, è lunga la Champions League, no? Beh, insomma, il campionato è più lungo, la Champions League è una competizione che ti brucia in fretta, proprio per questo quando io rido tutte le volte quando sento dire puntiamo a vincere la Champions League sbaglia un tempo, il Milan lo sa benissimo, ma lo sanno benissimo anche molti altri, sbagli un tempo e sei fuori, sbagli un tempo e hai perso, sbagli un tempo e non puoi più rimediare, quindi la Champions League è qualcosa in cui... Anzi, servono giocatori in grado di avere il colpo che risolve le partite più di quanto non accade in una maratona lunga come il campionato. Non la metterei sulla forza. Io credo che il campionato italiano sia tatticamente di primissimo livello mondiale, sia il campionato più difficile anche proprio da un punto di vista tattico. Non trovo tutta questa differenza invece fisica tra le nostre squadre e le squadre di vertice della Champions. Angelo da Bari, buonasera. Sì, buonasera dottor Gente, è un piacere parlare con lei. Reciproco. Io sono un tifoso milanista, molto sportivo anche. anche. Sono pienamente d'accordo con le parole che disse Conte ieri riguardo il Milan, la serietà che sta dimostrando il Milan, come sta facendo il camminare ultimamente. E sono d'accordo con il discorso che ha avuto lei l'altra settimana, dove si stanno incominciando a mettere le crepe della Juventus, no? Ha visto la difficoltà che ha avuto con il Napoli, le difficoltà che ha avuto anche oggi con il Cesena. Però se le crepe sono queste, insomma, mi pare che abbia portato a casa 3-6-1-7 punti. Molto dato. Beh, ma insomma, sì, no, ma poi, guardi, lasci stare le crepe. No, aspetti che risponda a questa. Le crepe, se si sono viste le crepe della Juventus, la Juventus ha fatto due vittorie, di cui una a Roma, un pareggio, di cui uno a Napoli, e la vittoria di oggi con il Cesena. Insomma, se le crepe sono queste, auguri. Vittoria di oggi. Come è arrivato il pareggio di Napoli e come è arrivata la vittoria di oggi, voglio dire, il pareggio di Napoli ma è stato guardato in premio. Angelo, lei sa che i campionati si vincono così? Sì, giustamente. Ah. Poi se mi permette un'altra domanda, io sono originario di Ostuni, no? Provincia di Brindisi. Sì. E niente, c'è Ostuni che sta in basket di Serie A2. Sì. Ecco, secondo me potrebbe essere Ostuni come il Chievo del calcio italiano. Ma ce ne sono molte di realtà, poi di realtà che partono dalla Serie B anche nella pallacanestro e che, se rimangono solide e fedeli alla loro filosofia, possono fare benissimo nel massimo campionato. Mi viene in mente Montegranaro, mi viene in mente Biella, che è l'esempio più luminoso, mi viene in mente Casale Monferrato, che è arrivata quest'anno, me ne vengono in mente tante, dipende dalla saggezza di chi le guida queste società. Il rovescio della medaglia sono invece quelle che vivono poche stagioni magari tra i fasti e poi spariscono, come è successo molte volte ad esempio alle siciliane. 800 24 00 24 per prenotarvi, intervenire e parlare con noi, 349 238 6666 per scriverci dei messaggi SMS, e poi Facebook e Twitter a vostra disposizione. Io rispondo volentieri a Cristina, che ci sta ascoltando anche se non si interessa di calcio. Ma cosa significa che una squadra gioca con la palla a terra? Dunque, gioca con la palla a terra vuol dire che gioca senza lanci lunghi, cercando una rete fitta di passaggi con il pallone, che viene trattato da quelli che hanno maggiore confidenza, senza cercare appunto lanci lunghi. Non so come trovare una definizione migliore, adesso chiamo un allenatore e vi faccio spiegare magari. 800 24 00 24 numero verde, Cristina stia lì. Mi perdoni la spiegazione, continui ad ascoltarci anche se non si interessa di calcio, anche perché è arrivato Filippo Maria Ricci ed è sempre un gran divertimento. Ciao Filippo! Buon pomeriggio! Dalla Spagna. Per la cronaca ti devo dire che oggi l'aria d'amico è vestita da l'aria d'amico. Tubino corto nero, maniche senza maniche, insomma, un bel vedere anche in questo caso. Sobrio. Lascia sta. Allora, l'arbitro imbizzarrito al Real Madrid doma pure lui. Titolo del tuo articolo sulla Gazzetta di oggi. Imbizzarrito come? Che ha fatto? Allora, diciamo, prima della mezz'ora già aveva buttato fuori Rui Faria, l'assistente di Mourinho, che non aveva fatto niente di che. E due cartellini in giallo e due panchinari. Io è la prima volta, ne vedo tante di partite, però diciamo tre sanzioni contro le due panchine alla mezz'ora, forse 32-33. Mi sembra abbastanza una ricerca di un protagonismo quasi assoluto. Non è che aveva le microspie. Ma sì, insomma, voglio dire, la partita poi era tranquillissima, è finita con 9 ammoniti e appunto 2 espulsi, ma una partita senza gran senso. Però in tutto questo la cosa principale è che il Real Madrid è rimasto veramente ai margini di tutto questo, di tutta la polemica. È un Mourinho completamente diverso, un Real Madrid completamente diverso da quello che eravamo abituati a vedere. Si stanno preparando al classico. Ieri è stata per me un campo comunque ostico. L'anno scorso era finita a bottigliate, non so se ti ricordi, con questo Manolo Preciado, Mourinho squalificato, volata sta bottiglietta, Rui Faria provocando. Quest'anno, con tutto che l'arbitro ha provato in tutti i modi a dar fastidio, a metterci del suo, il Real Madrid è andato avanti per la sua strada, ha fatto i suoi colletti, se ne è tornato a casa 3-0 e alla prossima partita. Questa per me è la grande, grande differenza rispetto, non nemmeno poi all'anno scorso, ma solo ad agosto, insomma, o a settembre. Ma hanno la calma dei forti, cioè sono una squadra però quando hanno cominciato consapevolezza. A Sì, non erano così forti quando, perché cioè, tutto questo è nato da una sconfitta e un pareggio, dopodiché hanno cambiato, cioè, lo spogliatore ha detto a Mourinho, caro José, dico, stai buono, no, stai calmo, che vediamo com'è, e da lì hanno cominciato, adesso sì hanno la calma dei forti, però insomma, non è che prima fossero sì. una manica di pippe, come si dice, insomma, e che adesso si sono, no, ma sai, ma che si sono tolti quel polverone, certo. da, cioè, ogni partita trasformata in una guerra, insomma, infatti adesso è una squadra seria. Sì, hanno un'autostima che può toccare il cielo tra una settimana. Barcellona tra ieri ha passeggiato con il Levante 5-0, tutti titoli Luna Park, Barcellona in casa 39 gol contro 0 e anche qui parliamone, no? Perché sì. parliamone sulla distinzione tra estetica e spettacolo sportivo. Mi sembra che al Camp Nou di spettacoli sportivi intensi, agonistici, se ne vedano pochi. Sì, bisogna andare fuori, perché a questo 39-0 possiamo affiancare l'8-7 del Barcellona in trasferta. 8 gol fatti e 7 subiti. Guarda, anche Messi ha fatto 17 gol, 16 li ha fatti in casa. Sì. Sì, c'è una ma differenza. È anche vero, tu mi insegni, Filippo, che le avversarie medio piccole arrivano lì con le braghe calate. Sì. Qualcuno ci prova e quindi se ne va via con onore col suo 5-6-0 contenti. Sì. E qualcuno non ci prova, se ne va via magari con un 3-4-0 scontenti, e tu però tutto a posto, quella è un'altra partita, il Barcellona è un altro pianeta, molti ormai è diventato un alibi per molti, io l'ho sentito dire, non so, ai tifosi del Napoli dopo il Gamper, avevano perso 5-0, dice no vabbè, ma qui è un altro pianeta, vabbè, tutto a posto, però tanto poi magari ci dovrai giocare prima o poi, e si è visto che in trasferta le cose vanno diversamente. Adesso questa per me finalmente è un po' la madre di tutte le partite, quella di sabato prossimo, perché finalmente c'è una sfida. Prima era solo una questione di nervi, una questione vediamo che fa Mourinho. Adesso il Barcellona è in difficoltà, quindi dobbiamo dire vediamo cosa fa Guardiola, intanto se gioca con 3 in difesa o con 4, e avendo 6 punti di svantaggio, anche se sono 3 perché il Barcellona ha giocato una partita in più, deve venirsela a giocare, insomma. Certo. Senti, ma tu che vigilia ti aspetti da Mourinho? Allora guarda, perché questa è interessante, questa, perché lui c'è anche la partita con l'Ajax, e quindi qua un po' se ne parlava l'altro giorno così in sala stampa, vediamo se viene sempre, lui teoricamente ha 3 conferenze stampa prima del Barça, prima dell'Ajax, dopo l'Ajax e prima del Barça, e qua diciamo tutti pensano che non le farà tutte e 3, quindi o manda Karanka per l'Ajax e poi gioca tutto sulla conferenza di sabato, di venerdì, oppure fa l'Ajax e magari non fa la conferenza prima del Classico, potrebbe anche essere questo. E io lo vedo tranquillo, si sta mordendo la lingua, si sta trattenendo, aveva motivi per dire qualcosa, per togliersi qualche sassolino, con per esempio il cartellino giallo a Piquet, no? Che cerca forza il quinto giallo per non giocare con Levante, giocare è una cosa che va punita con 2 giornate, gli hanno dato solo 1, non ha detto niente, cioè, appunto, anni luce dal dito nell'occhio. Beh, però, insomma, ho capito, però adesso siamo al dunque, no? Io non posso immaginare un Mourinho che buonista verso la partita che è la madre di tutte, no? Che il confronto che... Sì, è il settimo dell'anno, ricordiamolo, e io però magari, siccome Mourinho non fa nulla gratis, questa è una strategia, e se va avanti con questa strategia la può mantenere, per ora gli ha dato dei frutti incredibili, e magari va avanti così, e non dice niente e prova a fare la sua partita, del resto voglio dire, tutte le altre mosse le ha già provate, la provocazione, i lamentieli, no, il jacuzzi, fino ad arrivare appunto alla ditata, allora gli mancava la posizione da cloroformio, magari decide di provare questa e vedere l'effetto che fa. Vedere l'effetto che fa. Punti di vantaggio può permetterselo, sì, no, perché certamente vorrebbe un po' dire, però sconfessare questa guerra o chiudere, magari sarebbe anche il momento di chiudere questa guerra santa contro il Barcellona e contro Guardiola, certo. No? Ti dico una cosa, vederlo così in conferenza stampa fa quasi ridere, insomma, perché sono andato su anche l'altro ieri e niente, praticamente non c'era un titolo, mentre prima ne potevi avere tra i 5 e i 10 a seconda di quello che cercavi, adesso siamo in una situazione di una conferenza stampa, non so, di un Pellegrini, per esempio, per dirne uno che qui veniva considerato uno tranquillo. Vediamo, è ovviamente tutta strategia, non escludo che vada avanti così, perché appunto tanto in settimana lui si farà la sua partita con l'Ajax, ormai è influente, il Barcellona va a giocare con tutti i ragazzini, deve giocare col Bate, ha già convocato praticamente tutto il Barça B. Tutto il settore giovanile, sì. Sì, praticamente tutto il settore giovanile, cioè ci rimangono sì quelli che devono un po' giocare, Pedro, Piquet, così, ma insomma quasi il resto sono tutti sì. Non convocati. E vediamo, cioè è interessante, ecco, vedere come Mourinho affronta la. Però secondo me ha capito che voi le ha provate tutte, adesso proverà. No, ma certo, poi non sarà così fesso da rompere certi equilibri che funzionano e nemmeno da caricare la squadra di tensioni emotive non richieste. Quindi, Filippo, un'ultima cosa. Ma De Laurentiis che dice statevi a corte arabi perché so che avete cercato di così che avete fatto un po' di corte al Villarreal che sì, sarà qua si chiama il maletin è la valigetta sì. A fine anno viaggiano lo smalettine. È arrivata la malettina o no? Esatto, il malettine. Beh, io quello che segnalavo oggi anche nel giornale, dico, c'è poco da portare malettine. Questi in Champions ne hanno perse 5 su 5. Sì. In campionato sono praticamente a un passo dalla zona di retrocessione. Ieri hanno perso col Racing Santander, che poveretto, con Cooper comunque veramente uno sfigato, se ne va, questi vincono subito, per confermare un po' la tendenza. Voglio dire, insomma, se ne parlava prima con Giorgio, il tuo collega, se il Napoli non vince questa partita, pianga se stesso, non so come dire, cioè, questa è una partita non diciamo facile perché non ci sono partite facili, però è una partita che va vinta per tutto quello che significa, lasciare fuori Manchester City, andare avanti in Champions, già siamo in grandi difficoltà a livello di ranking europeo, abbiamo bisogno ma assolutamente, però l'atteggiamento del Villarreal sarà piuttosto importante. Se lo sceico, sì, però sai, l'atteggiamento può contare fino a quanto ti pare, ma non è certo uno stadio greco o turco per cui ti puoi spaventare, è uno stadietto lì che non ci va nessuno, saranno molto più rumorosi i napoletani. Questo sicuro. E la squadra è quella che è, non c'è talento, c'è una difesa che può essere la difesa di una squadra di Serie B italiana. No. E, cioè, io non lo vedo, cioè, se succede qualcosa e il Napoli non vince, sarà solo colpa del Napoli. Io la vedo così, insomma, non so, forse sono in Spagna da troppo tempo e no, vedo le cose diversamente, però questa è una squadra che, cioè, il Napoli è 10-15 volte superiore. Quindi non vedi grandi minacce, non vedi vabbè, grandi insomma, minacce. Sì, cioè, può anche arrivargli il maletin rigonfio di petrodollari, però è uguale, devi vincere lo stesso, con o senza l'incentivo per il Villarreal, perché sulla carta il Villarreal non ha nulla praticamente. Adesso sono rientrati Cani, Nilmar, ma insomma, gente che rispetto a un Lavezzi, Cavani, Hamsik e via dicendo, non vale niente, insomma, cioè vale molto di meno. No, poi Villarreal è a quota 14 esattamente come l'Inter, si vede che è il gradino di quelli in stagione 9. Ma, insomma, sì, però non c'ha nemmeno i giocatori dell'Inter, qui questa è una squadra che si deve guardare veramente, seriamente alle spalle, cioè io non, per me non è una cosa strana pensare che il Villarreal possa andare in Serie B, cioè stando diciamo, senza Giuseppe Rossi tutto l'anno, con una squadretta così un po' raffazzonata alla fine, cioè loro veramente devono guardarsi le spalle, qui insomma lì in basso ci sono anche squadre buone, insomma si vince, cioè, oggi la Real Sociedad ha battuto il Malaga, perdeva 2-1, ha vinto 3-2, cioè non ti regala veramente niente nessuno, la Real Sociedad è una squadra che sta sotto il Villarreal. Il Napoli deve vincere e basta, insomma, storie non ce n'è, no. Alibi nemmeno e dunque contiamo sul fatto che quelli del sottomarino giallo stiano in coperta almeno per l'ultima serata di Champions, insomma. Grazie anche Filippo, va bene uguale. Un abbraccio, grazie Filippo Maria Ricci. Ascoltatori, a chiudere questa puntata di A Tempo di Sport, in attesa di riaprire poi i giochi alle 8:30 per raccontarvi cosa succede sui campi di basket, o cosa è successo meglio sui campi di basket, e anche per le prime battute del big match di oggi Cantù Siena. Andrea, provincia di Cuneo, buonasera. Buonasera dottor Genta, buonasera. Salve. Io sono uno di quegli juventini super ottimisti, solo ottimisti, per tre motivi semplicissimi. Mi fa piacere perché siete tutti i miei ascoltatori, siete in pochissimi, credo, siamo oggi. In tanti, siete in tanti ottimisti. Siamo in tanti. Il primo motivo è che finalmente non vediamo più giocare con la stessa maglia con cui ha giocato Platini, Zidane, Baggio, Del Piero, gente come Grigera, con tutto rispetto, però non gente da Juventus. Quest'anno mi sembra che tutti i giocatori, perlomeno quelli che hanno giocato un po' di più, siano tutti giocatori da grande squadra, che giocherebbero da tutte le parti, mi sembra. Non so se deve correggermi, però... No, chi più chi meno, ma insomma mi sembra che sia la squadra che funziona. Poi è evidente come in una squadra che funziona, Pepe, che magari lei un anno fa avrebbe portato via a spalle volentieri, diventa giocatore chiaro. È vero. Una bellissima sorpresa, però lì Conte è stato veramente in gamba, e questo è il secondo motivo. Secondo me Conte finalmente uno juventino, no? A guidare quella che è la Juventus, con tutto rispetto per Del Neri, buon allenatore, però non da grande squadra, ha fallito praticamente da tutte le parti dove è andato. In grandi squadre mi viene in mente la Roma stessa, cioè, sì. Non ha fatto... E beh, Conte lo stiamo scoprendo, perché comunque allenatore alla grinta, perlomeno alla grinta, certamente, però anche lui reduce da stagioni ondivaghe, bene da qualche parte, meno bene da altre, eccetera eccetera, e comunque un allenatore molto giovane, non aveva, e questa era la mia grande perplessità, non aveva comunque esperienza da grande squadra, pur essendo stato per il capitano della Juventus da panchina, non aveva questo tipo di esperienza. E insomma, l'ambiente juventino, esasperato dalle stagioni che lei conosce, pensavo avesse bisogno di qualcuno di maggior, così, maggiormente avvezzo a pilotare traghetti di questo tipo, no? In questo Conte, devo dire, mi ha sorpreso, agevolato comunque da una dirigenza che gli ha coperto le spalle, agevolato comunque da una stagione che si è messa bene da subito, ma fin qui il lavoro è stato eccellente, è stato anche per certi aspetti facile, perché credo che i momenti complicati non siano ancora arrivati, però la Juventus certamente arriveranno, come fisiologico, dica. Sicuramente. E poi le partite vinte con la Lazio, in maniera, probabilmente, ha detto bene Buffon, era un pareggio il risultato più giusto, e la rimonta di Napoli soprattutto ci fanno ben sperare. Certo, segnale, ma anche quella di oggi, non trascuri quella di oggi, perché era una partita, ripeto, per la Juventus, la cui grande una delle grandi risorse della Juventus, lo sapete tutti e continuiamo a dirlo, è il fatto di essere impegnata soltanto una volta a settimana in campionato. Ebbene, ha vissuto una settimana da coppa, no? Con dentro tre partite, con la trasferta di Napoli il martedì, senza Pirlo, oggi si trova di fronte a Cesena, primo tempo 0-0, non una grande Juventus, Conte cambia molte cose. Vediamo subito Quagliarella all'inizio della ripresa, e lì a pensare, se mette Quagliarella così presto vuol dire che ha sentito forse puzza di bruciato, Del Piero che si alza dalla panchina al decimo, si fa male subito dopo, insomma tante piccole avversità che la Juventus ha superato nel modo che conoscete. Grazie Andrea. Ivan da Parma, buonasera. Buonasera. Allora niente, io purtroppo in questo momento, ma purtroppo per dire, sono un grandissimo tifoso dell'Inter. Sì. E ho due considerazioni da fare e volevo il suo giudizio. Allora, quindi la prima, si sente un po' più tifoso dell'Inter in questo momento? No, sono sempre super tifoso dell'Inter, no, non mollerò mai. Si sente un po' più interista, cioè ritrova sensazioni che aveva dimenticato? Sì, diciamo di in sì. In parte, ecco. Che ho dimenticato, però vabbè, insomma, io sono convinto che, la mia prima considerazione è questa, sono convinto assolutamente che una squadra che vince un campionato lo vince per il 50%, magari sbaglio, magari percentuale, per la sua bravura, ma anche per il 50% per la sua fortuna, sia per le decisioni arbitrali, chiaramente per le occasioni che le possono capitare. Io ricordo quando l'Inter vinse nell'82, se non sbaglio. Guardi... Così. Quello con Serena, quando Serena faceva gol di schiena, di faccia, insomma, qualsiasi palla che toccasse andava dentro. Beh, quindi... però guardi Ivan, sa meglio di me che il calcio è questo, no? Ma basta guardare, ripeto, su un altro fronte, in luce completamente opposta, gli ultimi 5 minuti della partita di ieri sera, no? Quando può piovere diluvia in certi momenti nel calcio. Qua, ieri sera abbiamo avuto l'ultima, la prova certa, che praticamente... Insomma, quest'anno l'Inter è così, non gli gira, buonanotte, facciamo quello che dobbiamo fare, per non dico retrocedere perché è impossibile, ma per quanto, almeno per fare un piazzamento decoroso, e speriamo nella Champions in questo punto. Ma la seconda osservazione che volevo fare, secondo me la più importante, è che secondo me la gestione Moratti quest'anno secondo me ha fatto qualche buco, nonostante tutto il bene che le posso volere, perché ha fatto tantissimo per l'Inter, ma non si possono andare via dei giocatori come Ibrahimovic, non si possono andare via dei giocatori come Tô. Beh no, attenzione, non... Ibrahimovic sì, è stato... abbiamo fatto un affare. È stato l'affare che ha aperto all'Inter la porta del triplete, mi pare, no? Sì, sì, questo è vero, d'accordo. Io sto invece guardando un giocatore che segna con una spalla dopo un rimpallo con il portiere, ma in modo beffardo, non so se l'ha visto anche lei, questo gol di ieri contro il Norwich di Mario Balotelli. Tiro, respinta dal portiere, si trova la palla e segna con un colpo di spalla. Sì, sì, ecco, questo sulla necessità di lasciar partire questo giocatore, parliamone. No, ma infatti, e poi dico sì, arrivavo anche su di lui, insomma, io, vabbè, poi anche Oriali, che sinceramente questa di Oriali non l'ho ancora capita, mi sa dire lei come mai Oriali è andato via dall'Inter? No, io no, ma insomma, Oriali era molto legato a Mourinho, c'era evidentemente un conflitto di poteri con Marco Branca e l'Inter ha ritenuto opportuno ha scelto Branca, mano libera a Branca e Oriali... Arrivederci, grazie. E niente, allora ritorniamo 6 anni fa quando si soffriva, ma perché poi il tifosi triste così è, ha sempre sofferto, ma fa lo stesso, va bene così, ci rifaremo poi più avanti. Sì, il punto è questo, quanto dovrà aspettare l'Inter prima di vedere una squadra che torna competitiva? Questo è il domandone che non trova risposta, caro Ivan. Grazie. Giancarlo da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Tifosi interista. Eccolo. Ma semplicemente io sono dell'idea che la società Inter non è mai esistita, non ha mai avuto una consistenza, ha avuto solamente una grossissima consistenza economica. Se pensiamo a tutto quello che c'è stato speso nella presidenza Moratti, io penso che si sarebbero dovuti vincere non solo sì, pochi però, scudetti. Pochi relativamente, perché l'ultimo ciclo è stato discretamente lungo. Diciamo che comunque l'Inter... una consistenza con gli scudetti di Mancini e con Branca e Oriali prima, una consistenza soprattutto con Mourinho dopo, ce l'aveva nella gestione di Mourinho, la società era proprio l'allenatore portoghese che era il fulcro delle operazioni di mercato, che era il fulcro mediatico, che era quello che teneva le file di tutta la baracca. Con l'uscita di Mourinho, poi è andato via Oriali, il tutto si è un po' sfilacciato e nei momenti in cui si tratta di ricostruire questi vizi vengono a galla in maniera anche crudele, anche impietosa. Vi do prima di chiudere una notizia richiesta con pertinenza, peraltro da un ascoltatore via SMS, sulle condizioni di Del Piero, che oggi ha lasciato il campo in barella con una ferita alla fronte. Ebbene, il bollettino dice ferita lacero contusa alla tempia sinistra, questa è la diagnosi. 8 punti di sutura per Del Piero, il giocatore non ha mai perso conoscenza, la ferita è stata suturata già allo stadio appunto con 8 punti e è stato comunque portato in ospedale per i controlli di rito. Un brutto taglio e tanto spavento e molta sfiga, ma tutto lì per fortuna. Chiudiamo qui, Giorgio Lucchi in redazione, Valeria Bernardi in regia, riapriamo però il microfono alle 20:30 per raccontarvi il campionato di basket. A dopo.